una casa di cosa c'è, dimmi tutto. No, assolutamente no. Provo a passare qua a prendere quello esaurito e invece dice che si è fermata la macchina. Adesso aspetto verso le 5:30, poi scendo vicino a te, consegno i soldi a cosa, a quello là, e poi bevo la cosa e me ne salgo a casa. O a lui, no, a cosa, a capocondominio. E devo andare in suo ufficio alle 4:30-5 e vado. Io ho i soldi e poi me ne vado a casa. Perché non mi fa quello tu, cazzo? Oh, pagare, lo devi pagare, no, scusa. E poco, 250 euro e basta, non ne vola di altro, tutto il resto è tutto pagato. Non è che te l'ho detto, io ammazzo di tiro gli altri 250, che cazzo c'entra quello? E poi quanto sembra, ho chiesto alla banca, dice che ce ne sono altri 6 mesi. E dove ti righe io? Così mi ha detto, e poi così faccio. 6 e mezzo l'app. Via Genova, perché via Genova? Quello di stamattina, va bene. Vabbè, c'era Garibaldi, dice, sempre Garibaldi c'era, e cazzo, va. Oh yeah. C'era Garibaldi con i Garibaldini, c'era, quindi, a quell'ora lì. Quando sono entrato io stavo per chiudermi, ho detto io, aspetta 5 minuti. Stai venendo, ho detto Mario, 2 minuti, ho detto si piglia un caffè. Un vino, non so quello che è, poi sto andando a casa. Infatti mi ha aspettato. Per quello tu stai dicendo, una persona in gamba il padrone. Se mi aveva detto no, è chiuso, non era fottiglia nulla, dice, anche lui c'ha anche ragione, anche lui c'ha famiglia. Non è che deve stare a aspettare alle 4 di sera. E appunto per quello. E vabbè, sai, tutti sono così assassati che si mettono a voce nel circo. A casa sua non è che si mettono la voce così, no? Se si mettono la voce così ce li buttano fuori dal terrazzo. Io ho sempre parlato normale, tranquillo, mai mi sono messo a voce, la verità. Poi loro sono abituati così, cosa devo fare? A fanculo, vai. Adesso la prossima volta metto a voce, quando entro mi metto un amplificatore, così sentono solo a me, non sentono nessun altro. Mi metto un vibratore alla gola, mi metto quella specie di coso, un amplificatore, si piazza. Me lo metto da 20 watt, così sento solamente a me e basta. E non lo so, perché forse sta facendo cosa, non lo so, non so cosa dirti. E stamattina mi hanno regalato un po' di roba stamattina, allo spi, alla una. No, non c'era, quelle nuove non c'erano. Evidentemente sono da una parte all'altra, cosa ne so io? Altre masciotte, oio. Prima di che penso quel giro, una volta c'erano 15-20 masciotte, a bordo delle mancuna. Sono tutte sparite da quando ci sono questi nigri, ma con un cane c'è, cazzo. Vabbè, già ne procurerà qualcuna, cosa ne so io. Si farà un giro lì a dove passi tu a pigliare la Mondezza. A voglia che ce n'è vicino alla piazzetta. A fare loro sono. Mentre sono persone come si deve. Lo sai che quella che è morta in quell'incidente, te lo ricordi? Lì a Paraniera la conoscevi, anche tu la conoscevi. No, quella del furgone, quella che è morta, che è stata, ha fatto il volo, l'ha messa sotto il furgone, quella la conoscevi anche tu, se ti ricordi bene. Fai memoria, il periodo di cosa, della, la fancula, Erminia si chiamava. Eia, la conoscevi anche tu quella. Se ti ricordi abitava a Sassari Vecchio, a parte lì, in via Roma, dove c'erano le suore abitava. Lo so, l'ha beccata il furgone, ha fatto 4 giorni di coma e poi è andata sopra. L'ho saputo da Francesca, l'ho saputo, mi ha telefonato, ma pensavo che fosse lei, la verità. Perché la foto non l'ho vista, ma neanche il cognome me lo ricordavo più. Ti sei abbassato, non ti sento più, eh. Adesso, amato sì, succede solo. Dice, beh. aspetta un secondo, vaffanculo. Sono le 5 solo. E mica scendo adesso, no? Alle 5 e mezzo scendo. Cioè 5 e mezzo così almeno consegno quella roba lì, faccio fare la fattura e poi sono a posto. Pagare proprio un cazzo di mia sorella io. La roba mia è quella di mio fratello Bart. Io sono a posto. Lei la paga, si arrangia. Cosa devo pagare io? Ah, si arrangia. Non se me la fatti a me. Ui, ui. Va bene, già va bene. Oh. Ho capito un tubo. Porto la battistina, 5 minuti e... ti cambia quel cavo riccoso e va a culo. Quindi vai al meccanico e ti fai... vai da quello che c'è in via Civita Vecchia. Vai lì, 2 minuti e ti sistema il coso. Se c'è un motorino uguale te lo mette e ti stacca quello che c'hai vecchio e te lo mette nuovo, almeno accendi la macchina. E ti tuffo! E fai lì allora, vai lì, non c'è problema, basta ti sistemi quella panda, perché così non puoi stare a spingere, ce la fai. Ogni volta, cazzo, sembra la 500, sembra. Vai, spingi, prenditi il portatile appresso, così mi chiami col portatile, tanto ce l'ho appresso io. Non è, il telefono sai che non prende a volte, quindi a un certo punto prenditi il portatile appresso e così mi chiami. Tanto prende la renta. Eia, ti chiama Gufa, avanti. Effe, Giorni Maria. Che sei seccata la chicchia, dimmi. Ciao, attore, buone le frittelle, Ah? Ah? Non ti sento. Adesso mi senti? Adesso sì, mangiate se le hai le frittelle. Magari. E te ne ho mandato un vasoio, non sono arrivato. Ma te, sono Gufo triste. A me non mi hai fatto nessun vasoio, mi. Non te l'ho mandato, mia Luca l'ho mandato, Luca arrivateci su. Capito, gufo triste. Mangiate se le hai le frittelle che ti ho mandato. Io. Adesso questi giorni le faccio pure io, ma non quelle, però faccio quelle, noi fatti fritti, ma le ciambelle di patate, che sono non buone, te le mando io pure il posto, così più dopo. Eia, ho fatto anche le frittelline, ha fatto mia figlia, non le ho fatte io. E le ho mandate anche a Torello, non le sono arrivate. No, la foto non mi è arrivata niente ancora a me. Lo sai che io non c'ho wifi qua, devo scendere giù. Ah, WhatsApp non ce l'hai? No, non ce l'ho WhatsApp qua su io adesso. Devo ancora installarlo. Ce l'ho giù con mia sorella e quello che c'ho di fronte. Ah, quando scendi, guarda, già te l'ho mandato, un vassoio pieno a barchetta, calde calde, insomma. Poi mi dici se ci sono piaciute. Vabbè, se sono calde calde già ve le guardo, non ti preoccupare. Ma mangiatele piano però, che bruciano ancora, vogliono lasciarsi un po' raffreddare. Va bene, non ci preoccupare. Luca se le ha tutte divorate. Con Graziano. No, anche Maria gli ha comprato un giro, dai. Gli ha comprato anche lei e io. Mangiate adesso. La merenda. Vai, non compara su parali, poi stanno in gruppo, a 13 giri, a 14 giri, ma tu fumetti. E la poi manca a fianco, poi sono belle saporite, proprio buone buone, fatte in casa. Lo so, ma adesso a giorni mi sto organizzando e faccio quelle là, che ti ho detto. Mica ci ha messo 10 minuti a farle, ha preparato la pasta, ha messo cosa ha posto, la bottiglia quella dei liquori proprio, la farina, lo zucchero, l'ha impastata, l'ha lasciata un po' e poi le ha fatte con il butto, quello adatto per fare le frittelle. Grazie a diglielo che l'hai fatto con l'alchemist. O se no l'hai fatto con la birra, col vino. quelle frittelle. No, non lo so che liquore era, alice mi sembra. Alice, e meglio ancora se alice. Se bevo, mi becco prima. Cosa ha messo l'aglio nelle frittelle? Ah? Cosa ha messo l'aglio nelle frittelle? L'alice e l'aglio. Ah, ho capito. No, mi aggiorni le faccio io, dai. Ma io già le avevo fatte qualche anno fa, ma un bel po' di anni fa. Ed erano uscite buonissime. Mi te lo faccio dire a mamma quando le mangiava. Mamma ha detto, così sono. A giù si rimane tutti dieta. Mica ci ha messo a farle mezz'oretta in tutto, un cazzo di che vi vuole. Ma noi vi voglio appetito travaglio. Anzi, se c'è la frutta fai ancora prima. Perché infatti con la frutta, io già ce l'ho, ma lei la vuoi a mano, all'antica. E ci mette appena appena di più, come sempre. Se no fai veloce. Ah, mi la va a pagare la 11, da 13, da 14, vai! Lo saranno. Con vicinato nella farina di pesce, tutto lo corrente, non fa una volta, lo fa 5-6 volte che ne va di frittelli. Va? Ah, va, riposta e mi le vendo. Te li compri a 10. Luca! Poi ne riprendi. Ehi Agazia, le frittelle già sono buone, ma se le fai a 14 è meglio che me le faccio a casa. Scusa, al limite mi piglio la pizza, mi conviene anche di più altre frittelle. Già lo credo, e anche a 14 le stanno vendendo qua a negozio, nel supermercato. Ehi, aspetta qua. Ma buffonemi, le cose sono d'oro. Grazie, così è, purtroppo così. Guarda, meglio le cose, guarda, la pizza che le frittelle comprate, sta tranquilla. A farla a casa non ci vuole molto le frittelle, non è che ci voglia tanto. Appunto, uno con 14 euro, quanto corre che ti compri, ne vai di frittelle, a voglia che ne fai. Ehi, già lo credo, mi sta facendo male, dice che con 14 euro ha voglia di vino che si beve, altre frittelle. Già lo credo, non saranno, poi se ha fatto veloce, tanto di che vi buono, anche quando fa le torte, fa in fretta qua, non alla cuparalli, di tutti i romantici, accorciano in bocca. Compri gli ingredienti e la fai in casa, alla matriciaca. Ehi, vabbè, io non lo so fare, quindi già me le faccio fare al limite dagli altri, ma comunque già l'ho visto che costano un sacco di soldi le frittelle. Anche nei circoli addirittura, quando fanno le cose le vendono un sacco di dinà. Ma oggi come oggi, guardi su internet se non le sai fare. Lo digiti come fare le frittelle per via, e c'è tutto spiegato come si fanno, se uno non le sa fare, ci riva dietro. O non hai compreso, c'è scritto quanto grammi devi mettere di farina, di zucchero e via dicendo così. E uno si riva in casa sua, ma non si può ripagare a 14 euro, ma ce la fa. E quello già è vero. Quello è un furto autorizzato. Vai. Se mi ripagano a te, ci mi la arrivo io. So di che. Già ce lo faccio compreso. Allora, ma... Oh, iaia. Beh, Mario, mi sta a posto la macchina. Ah? Ah, Mario sta in c'è. Luca, caduto sì. Aspetta, cos'è stato male alle 3? Mi ha detto Luca Flippa che il tanto doveva scendere al tabacchino qui che passava e così ne era dato un chiletto e non si è visto, la parte l'avevamo mangiato, invece un paese. Oh, che è morto! Tutte ce li abbiamo, peggio per te! Monello, sei un monello. Ho capito questa cosa, tu Luca Frippa il tabacchino, cosa hai detto? Ha detto, dato che doveva scendere qui al tabacchino, da casa sua, passa a casa che gliene da buon filetto. E invece non c'è venuto e ce li abbiamo mangiati. Ma tu vedi, lui ce l'ha mangiata l'altro giorno, capito? Ma Giù mai è qua, eh? E io? Cazzo di casino, voi siete parlando in quattro. No, è confuso. Ciao Maria, chi sei? Che dormito. Mario, cos'è che ha detto? Non ho capito un tubo. Se non parlano gli altri, non ti capisco. Sei in macchina, cosa ha detto? Luca, tu? Se vi entra Giù Maria, e io non ci sono, fai favore. Che lo stavo che cercando per domani, per darmi conferma. Ah, per dare conferma a te, vabbè ti faccio telefonare al limite, dai. Prego tu. Cazzo di fuori dove c'è fuori, ma stai scherzando? C'è un'entrata veloce, gli consegni i soldi, se la tocca in culo, poi vado, bevo una birra e me ne torno a casa, stasera. Cazzo di fretta, ma... Oh, ce la faccio fare la fine della notte. Sono rimasto cazzo due giorni, coma di collo, cazzo, vomiti e cose del genere, no, non esiste, no. La fesseria mia che ho fatto io perché c'era caldo, cazzo. Ma va, non faccio più lo sbaglio di prima, no? Sicuro, quello già morì tu, non io. Senti la tua invece, il barrado. Ehi! Ehi! Ehi! Luca! No, ti hai sentito Luca Flippero! Ehi! E Johnny Marina, dormito, Boh, penso di sì. Ciao Mari! Non mi stai! Tanto dromme, baro! Proprio come un ghiro, Come un? Un ghiro, il ghiro dorme un bel. No, è il giglio, no? Il ghiro. La del tracco, Chi è che può entrare? Non lo sento. Chi è Antonio? Giorni Maria, a chi sei? Luca, è la fare di mangiarsela. Ma quanto parlo, sempre spaventendosi. Ma non la matracca, ma non ti stracchi mai. Mica ti ho mandato un vassoio di frittelli, guarda su WhatsApp. Ma quelli lì a me non mi piacciono. A me piacciono mangiarli direttamente, è vero, no, non la fotografia. Non le mangio fotografie io. Guarda che c'è anche la preparazione delle frittelle. Ti ho mandato il video. E cazzo, guardi, noi sniffa e vedi che è come che se ne stai mangiando. Che hai detto, Gio Maria? E quelle mangiatele tu, e io fotografie non le mangio, te le ho mangiate ugualmente, me le sono comprate da Cray stamattina e me le sono mangiate a pranzo, e quelle tue te le rimando dopo. Io le mie sono fatte in casa, altro che Cray, sono buonissime. Sto scendendomi, dammi due minuti, sto scendendo, vai a fanculo Mario. Luca, dilli che buone che erano. Lu! Ehi, you! Oggi ho fatto la pancetta rossa, il salsiccione, il terrazzo. Non c'è arrivato il fumo di lì. No, tutto chiuso, qua fumo non ne arriva. Qua l'unico fumo che arriva è quello del coso, dai, da sto pappellet. Tu mi dai un freddo. Ma già faccio lo matese, dai, piano piano. Grazie, tu mai hai avuto i tinni, poi ci pensare agli altri, mangia e fregatene. Oggi dici, mi sa Luca, gli apri il vacone e mi vedi, te lo sembra mai tenni dal razzo. Ciao Maria, mangiando le frittelle, sì. Cacchi, sto gusto. Chi è? Guffo, grazie, ci sei? No, ha detto Guffo. Ah, è finito un subito, mamma mia, cara. Dimmi lui. Ha dormito, sì. Oh, stavo mettendo a posto il braccio nell'angolo, lo stavo tappando con la busta di nylon, se no se piove. bacci piena di acqua, che adesso già è spento. Ah, comunque è arrostito pancetta, così è. Pancetta e salciccione, e pasta e cicchia prima ho fatto. Buona vita, Ida! E anche Marina ha fatto pasta e cicchia, un po' di cavoli, buona, eh. Buona, sì. E pasta e cicchia da molto senza farla. Ci ho messo anche i finocchietti, quelli in campagna. Ho capito. No, quelli non li ha messi. Un po' di cavolo, a me piace così, con la carne. Buona, buona, buona. Ehi, e quando scendi in campagna, te li fa un po' di finocchietti, li pulisci, li lavi, te li metti in una busta e li metti nel pozzetto. Quando ti servono le biglie, 4 o 5, che insaporisce il mangiare, no? Col coltello li triti e se li buoni in mezzo, gli dà tutto un bel sapore, bello, fresco, buono. Beh, ma sinceramente parlando, il finocchietto non mi piace in mezzo. Ma lo tagli, no? Lo triti col coltello a piccolino. Cazzo, c'è poco, è saporito il sapore. E anche il profumo che fa quando sta cucinando. Dillo a Marina, tu non te ne intendi. Marina già lo sa. O dillo a mamma Giulia, quindi. Io lo so, stamattina li ha comprati, mamma. Ha fatto anche lì pasta e cicci. Però i finocchietti, no, a me è selvatico, no, mi piace, proprio finocchietti, no, no, nine, no, mi piace, meglio semplice. Ognuno ha i suoi gusti, no? Io lo utilizzo spesso anche nel minestrone. Caspita, è buonissimo, è più sano di tutti, i rubinocchietti di campagna, me lo mangio buruguruso così. Posso dare il magnete, lo pulisco. Ah, non mi piace a me, grazie. È il finocchio normale che lo mangi? Sì, quello che non ha sapore di selvatico, però, sì che lo mangio. Quello a testa rotonda, le femminelle. Allora la minore non li mangiava i gaie di campagna, babanzolo, finocchietto, ravanella selvatica. Non le mangiavi, un babanzolo. Il pan di Spagna, quei fiorellini rotondi, dimmi che poi c'è il fiore giallo. Buona due. Sì, ma quanto lo sì. No, finocchietti no, sono sincero. Non ne mangiamo. Non è che si piace a tutte le amate si gozano, capito? Vabbè, adesso vediamo un po', domani mi organizzo, se ci riesco faccio queste ciambelle di patate, buona riso, crocro, e poi ti mando la foto. Le ho mangiate le ciambelline di patate, sembravano, non ciambelline, erano anellini questi, sembravano cucinati, come erano arrosolati, tipo i calamari. Quando li fai fritti, quelli anelli. Invece era patato. No, sono buoni, sono buoni. Sono buoni. Vabbè, comunque ci provo a fare. Adesso sono da un po' di tempo che non le faccio. Domani mi organizzo, vediamo. Domani o dopodomani. Da lei, noi a qua a cucinare quando non si è venuta. E già ti impari. E vedrai da voi. Fai la mano e fai pratica e cucini di più, che ti piace anche poi a cucinare, a me mi piace a cucinare. Certo, che io non piace a cucinare, a me già mi adatto, dai, non è che sono bravo, ma ce li faccio dei pasti buoni. Adesso prendo le frittelle, l'altra volta ho fatto la torta, è uscita buonissima, capito, l'impasto l'ho fatto tutto io. Vabbè, sono quei condimenti pronti comunque, dai, ma ho aggiunto tutto il resto, capito? E niente, è uscita buonissima. Adesso mi organizzo e lo faccio, domani o dopodomani. Guarda che gli chef, quei piatti che fanno vedere alla televisione, quelli sono piatti improvvisati da loro. Non è che sono piatti che... molti piatti che fanno vedere. Sono piatti improvvisati da loro, non sono neanche piatti antichi, diciamo, là. Sono piatti quelli, per lo più, tutti improvvisati da loro, capito? e ti rifate di pagare, con usare con un bevano quando andi in un ristorante, oh, ehi, il ristorante. Già lo so. Oh, via. Zio Maria, non ci sei? Domani mi ci provo, grazie, dai, non me le faccio. Ehi, Antonello non c'è più. Adesso attacco la 27, a vedere se sono lì. E beh, Luca mangiando stai, e vabbè. Ehi, you, chi è se? E beh. Luca, dormito sei Luca. Marco, accendi qua. Cos'è che vai? No, c'è dai chi, allora così un garra. Sei qua. No, no. No, no, giuppa. Meno male che sei salito qua. No, avanti, avanti rimani a Rugabo, Elio. Avvero. No, davvero, aspetta che c'è gente, già rientro subito, vai. No, a me me ne parlano i brazzi. Vediamo c'è niente. Non c'è. È uscito, sta cambiando le scarpe. Non me ne escono. Uia. No, aspetta. Stefano mi ha detto che in quel modo si sentono un bel di gente e puoi parlare anche tu come SWL. In quel modo digitale che mi ha detto Stefano senti un bel di gente e più puoi parlare pure tu come SWL. E infatti io se tu l'avevi detto a me io me l'avrei preso, almeno l'avremmo usato, invece non lo vedi che gli allen due solo non va bene. Oh Marco, lo sapevi ci voleva per noi? Io non lo sapevo. L'ha fatto Gianfranco, l'iscrizione al computer per il numero per l'ingresso sui punti in digitale. Oh vabbè, io sto parlando a livello amatoriale, mi spetto la mano, mi è arrivata la conferma sul computer, capito? Perché devi dare la copia della licenza, vogliono. Quindi ho mandato la copia della licenza, loro mi hanno dato il numero di accesso ai ponti nostri però, capito? Dove parlano i radioamatori, se no non lo puoi eccitare il ponte. No, no. Ci vuole quel numero lì che è associato al nominativo tuo, capito? Identifica chi è che chiama. E si conferma, infatti me l'ha fatto tutto Gianfranco, il DMR ce l'ha Gianfranco che me lo sta settando, mi sta memorizzando tutti i punti con il numero di accesso dell'iscrizione e poi sto facendo altre cose. Come? Chi è? Chi era? Ui, Pompù, dove sei? Ah, gappa, gappa. Va bene, va bene. Dai, che adesso non so se ripasso lì, non so se sto in silenzio. Anzi, adesso do a mangiare il cane, prima dai, alimenti, ci sentiamo dopo se ci siete. Ehi, aspetta, va parlando Antonello, dimmi Marco. A te, proprio a chiamarti? Sì, aspetti, chiamo. Aspetta, prima su WhatsApp ti mando la richiesta che ho fatto con quello che ho ricevuto. Anzi, ti mando direttamente quello che ho ricevuto, se non devo mandare la copia licenza e tutto. Capito? C'è un numero ID che mi hanno dato. Per noi radioamatori associato al nominativo naturalmente. Aspetta, ti mando quello e ti chiamo, aspetta. Ciao, ciao, a dopo. Aspetta un attimo, Natali. Sì, già sono qua. Ehi, io! In alternata che fai, cro, qui siamo coccolo. Vai nella 27, bello bene. Ciao, ciao, ciao. Chup, chup. viene alla 27, ciucu ciucu. E beh, anziano, come va? Tutto a posto? Hai visto questa con l'antenna nuova ha mettato il segnale? Mario? Dopo dai sulla giunta per occupare. C'è il segnale nuovo adesso mio, lo sai, con quell'antenna. Visto che pompa con l'antenna, altro che quella piccola in gomma. Non c'è la magnetica da metterci in quell'antenna, Mario? C'è bisogno, sì, esci più forte fuori. Comunque sei 9 qualcosa, ha migliorato parecchio da una all'altra. Ui, la carità, lascia perdere. Domani mattina vado alle poste e faccio quel foglio di oggi, cioè quella roba di oggi, non ti preoccupare. Già ti chiamo per quello. Ha voglia e avanza pure appunto per quello. Almeno adesso sei 9 di segnale, prima di 7, 8, almeno adesso sei 9. Dove sei? In tua casa sei? Dove sei? In tua casa sei adesso? È migliorato parecchio con quell'antenna in gomma, quella lunga, quindi figurati tu. No, ho capito, è diventata dura, che cosa? Ah, così, allora sei a posto, Vittore. A casa, dove che sia. E lì, manco toccato, non ho toccato niente. Ah no, non gli ho contato niente, la verità, perché non mi da fortuna di contare niente. Vai così, cattiva, cazzo dici, come dici adesso. Usciabucco. Sì, ti va a tutti. Domani ci avevamo assieme con il tuo smale, forse non hai capito niente. Visto hai, io pensavo, invece c'erano. Fai domanda anche tu, uscia porco, visto hai, almeno fai festa anche tu. E ti bevi quello di tuo fratello. Sicuro, non ti preoccupare. Graziano, ci sei? Graziano. Ciao Bacchi, buonasera, ben sentito. Ti ascolto basso, Basso. Buonasera, avanti. Buonasera anche a te Bacchi, ma sei basso di segnale, non ho capito perché. Antoni! Dimmi tutto! Ma con Bacchigio stai parlando al PMR? E via, è qua! Sei nella 27 Bacchigio! No, è qua in Bacchigio, la verità! Adesso lo sta accendendo, mi ha detto! Guarda che ti chiama! Antonello! Dimmi tutto caro, ti ascolto! Cosa bella che mi ascolti! Tutto a posto, non c'è problema, ma chi? Mi ascolti Antonio, bene, male, come intendo? Illuminami. Basso sì, ma c'è ascolto, ma chi? Non c'è problema per quello. Ehi, con un antennino sto andando, un antennino da scapile. Allora va bene, non c'è problema. Visto hai. Ia, Graziano sul 23, siamo Gian Maria, le ripasso Briana, da Conticchio. Graziano, ci sei? Ehi, dimmi! Lo senti a Bacchigio, sì o no? Sì, adesso l'ho sentito. Chiamalo allora. Guarda adesso. Se mi senti basso metto un foglio di carta sotto i piedi. Adesso stai uscendo bene, sei più forte. Forte sono, perché ieri notte ero sotto accento tutta la notte. Che adesso ti ho sentito ancora meglio. Vero Antone, com'è da te? Lo sento bene, a voglia. Ci mancherebbe. Ehi, Gio Maria è nella 27. Io te l'appoggio. E io te la spingo. E ora? Se due gambe, tutte e due. Cazzo, sabato, buonasera. Certo, uno spinge con l'altro, e dopo vi vedi mari. A te ci piace il trenino, bello bei. Ma mi ci piace a te. Quindi? Anche a Antonello gli piace il trenino, diglielo a Antonello. E anche a Cogio, sì, chi è l'altro? Avanti. Uno e l'altro. Certo, grazie, la memoria se mi senti. Ehi, Gio Maria gli piace il trenino. Ah, a me mi piace il trenino, a Torello gli piace il trenino. E a te cosa ti piace? La litturina. Oh, la metropolitana. No, quella è troppo veloce, vero Antore? E infatti, appunto per quello. Ma chi, Caruso sì? Ma chi c'era l'ultimo vagone? Boh. Aspetta, non avere fretta. Già è qua, visto anche, c'è qua. Perché lui va con la locomotiva, quella a carbone, quella che fa... È sicuro. Sapevo. Come vai? Non c'eri tutta la sera cercandoti disperatamente. Ma sparito è Antone. Ah, buon osso. Mario, ci sei? Mario? Mario è sparito. Ha detto che devi già faccio cucciucco. E vai, vai. Avanti. Vai, vai. Chi è? Avanti, avanti. Che vai, vai, avanti. Sono io, ma non sono io. Ciao. Come sono io? Sono te presenti, cazzo, non te che dici così. Sono io o non sono io? Maleducato, va. Ah, Stefano, vaffanculo. Ciao, Stefano. T'ho capito dopo. Sono io, ma non sono io. Eia, Stefano. Saluto a tutti comunque, Stefano. Lo sentite, sì? Me lo auguro. Dove? Ehi. Lo senti a Stefano, sì? A voglia. E salutalo a me. Ciao, ciao, bestioso. Curioso. Curioso. E questo signor, fa lo scaletto, che cavolo è? Ci manca solo già l'ora sole come l'altra volta, guarda. E siamo a posto. Bestioso va. Allo, allo. Allo, allo, chi è? Il più forte di questo canale. Questo sotto accetto. Buonasera a tutti, belli e brutti, avanti Tore. Battiso, buonasera, mi hai sentito? Tore squalido. Aspetta un attimino che sto facendo una cosa, aspetta lì, riprendi. Grazie. Ehi, sempre belli, tutta la via è fegna, andate giù in una marrucola, mari macchi. Peggio di una marrucola, è peggio. E di chi da cosa? Di da delle dia che si acciappa sti... Eia! Bravo. Allora, riprendi Antone! Eia! Avanti, eia! E chi tu hai sciucchetti di gubbi? Gubi, ti sciucchetti di gubbi, Se pitorla. Avanti, grazie. Cosa stai combinando di bello? Cosa siamo per fare in bazzina? No, ce l'ho la cena, ne ho fatto di più a pranzo e dunque già c'è già. Quello di mezzogiorno c'è anche stanotte. No, oh, io c'ho bistecche d'agnello a brustolizze. Buoni, buoni, no, c'ho salciccione, pancetta no. Pasta e fagioli, pasta e ceci, a buglia. La gara vi va a magnarla. A me lo gesto già mi piazzi. Eia, ero da un po' senza farla, allora oggi ho fatto i ceci. Sì, dottore, Graziano, oggi ho fatto un gesto. Lei ci verrà pure in capo, no? È sicuro, pasta i ceci, salciccione arrosa, la griglia al carbone e pancetta oggi. Poi l'insalata e poi stasera pomeriggio frittelle. No, male. Che teso hai, cosa mangia oggi? Meglio l'elefante mangia. L'elefante questo qui è mangiando, un elefante. E come viene invitato a pranzo? O saranno, come viene a fare la vestimenta? Davvero mi, la verità, davvero. Graziano, Graziano. Io sono disperato, Graziano mi ascolta male, non so come cosa. Adesso ti sento bene, prima ti sentivo piccolino. Oh, quando ti stava chiamando Antonello, invece poi già ti ho sentito bene. Ah, ecco, allora mi dai un sollievo. Antonello, visto hai che mi ascolta bene? Adesso sì, meno male. Era a bagno d'aceto fino a poco fa, adesso ne sono uscito. Era ora, meno male. Sì, Tore, hai finito di fare quello che stavi facendo? Sì, ma non va giù un pezzo, mi manca un pezzo. Non c'è posto. No, un pezzo manca. Studiato ce l'hai il rosmetro, Tore? Sì che ce l'ho, perché? E dico, te l'hai studiato, hai capito il funzionamento? Sì, l'ho capito, perché? Cosa volere? Così qualche giorno vieni, lo porti e misuriamo qua, a vedere. La canna a me. Quanto gli facciamo pagare, Bacchi? Ehi, tu vieni, poi già ti pago. Ah, soldi ci vogliono, grazie, soldi, minimo 100 euro a viaggio. 50 a me, 50 a Tore. Qua non ti conviene andare di là a me. Se te fai con la macchina, non ti conviene. Ah, andare a piedi in macchina da Graziano, non saranno. Manco lo sportello, va sciappi. Antonello, quando viene qua viene sempre a piedi. E neanche portafoglio si porta. E tiene le mani in alto per far vedere che non c'ha nulla. Diglielo tu. Mai le mani in busciaccara. Cazzo, è fatto le cose. Infatti, ti dico se fra bacia di prassi che ci arrivi. Sì, via. In due ho rivalizzato. No, chi mi è zona limite, capito? Per un confine, grazie. Immagino che se siete partiti la macchina, mi ha lasciato tutto il gubbetto. Sono venuto a prendere, la volta sono venuto in macchina però. Ehi, ma la macchina dovrà essere parcheggiata alle scuole. No, l'ho parcheggiata sotto la veranda tua, nella discesa. Ah, allora già va bene, perché da lì si può sparare a tiro allo schioppo. Andavo. Però la prossima volta a piedi, che va a gli animali, Givi. A chi lo è di sicuro? A Tore, sentito lo hai? Sì, è ascoltato lo sto io. A un certo punto lui bisogna aprire l'ascolta per poter entrare nel tuo palazzo. A un certo punto non sai che non ci rimanga mai con la macchina. Sì, Antonè, pericoloso, Io poi ti riburo la macchina, ti butto la macchina in tria. Capito? Ti metto rapidi. Come minimo, quello già me ne sono accorto. Bubu. Ascolto il Zemmo in quella zona. E non va a abitare di ranno. E parcheggia la macchina due minuti e fa la spesa di uno spi. Ma con pezzo le trovi. Antonello, per controllo, cambio? Sì, ciao, dimmi. Per controllo, come posso dire? Fondo scala, sì, da questa parte. Ciao, mi hai ascoltato. Fondo scala. Ok, dai, ci sentiamo più tardi, ci vede. Mi interessa solo controllo. Ok, ciao, Antonello, ciao. Ciao, ciao, anche gli amici, ciao. Eia, ok, a dopo, dai, ci andiamo dopo. Eia, saluti anche l'amico, non ho capito chi era. Strano, una modulazione strana. Avanti, to. Ehi, dai. Tocca fa così, tocca fa. Andiamo. C'è il Bacchi, io ando a piedi da Graziano. Sono con due bassi, quindi cosa ando in macchina a fa? Sono come vicino, Graziano, che tu. La trasmissione, c'è una piazza, sto carrivito. Sono qui in piazza, non mi fa, mi passo, posso venire da sotto. Oppure da sopra, in piazza, nuda, pericolo, sempre pericolo costante, vedi, infatti c'è il segnale, pericolo di vita. Grazie, così bisogna fare. Cala, ti controllano. Grazie, ma allora c'è per poter entrare lì, la sigla c'è. Il posto di guardia c'è lì, ti controllano tutto. Ti controllo tutto. Ah, certo che ci vado a fare il piatto d'antenna lì in quel palazzo io. Non so se mi fregano la roba che c'è dentro la macchina. Tutto scemo sei. No? Io ho limiti. C'è la dogana, capito? C'è la dogana, non puoi portare niente fuori. La stasera c'è la da giudice passato in un gommista a controllare i gomme di rimarcare parcheggiati. Ma di la stampa? Stava guardando le sezioni. Stavo guardando lì se poteva fare qualche buco. No, facchi di gente che ha in gomma. Ah, ecco, la sua ordinazione. E allora c'è il cliente e il venditore. E chi tu li dice, no, che stanno andando via, arriva la prossima. Oh, boh, allora mi sta attento, dimmi coso, lo squalo, Tore. Perché attenta la macchina di gommi, sono nubi sedore, che sono belli. E niente da fa. A Cincivi io non vado. Hai compreso? Quella è terra bruciata lì per le... E poi io se la lascio lì, a me non mi fanno nulla, non hai compreso? Non toccano niente a te lì. Ah, glielo dico io a quelli lì, a andare anche da te. E chi tu, la gradina bianca, sì. Lì si può dire che sono di casa a me. Ma se gli servono le gomme tue già se le prendono, so. Sì, si vede se ne accavanniglie, chi su è? Io sono ben attrezzati già, puzzinosi. Ora si è attrezzati canto voi, però non vedete se ne accavanniglie. Lo so. Dipende da, perlomeno. Voi andate in ovvio, non mangiare, mangiare di becco, o cucata un bianco, o a cazzo, o si gira in terra, pure batterie, col coppa d'aperto. Grazie, la sua cosa è zona più rischiosa, poi se torna c'hai i bolloni con la chiave, vedete che c'è una serratura incorporata, no? È difficile tirarli fuori. Quelli no, magari quelli no, però fa di peggio di la trappare. Chi su è Rumaro? Non le aggavo, te la taglio Rumatessi. A me parecchi anni fa, una ventina d'anni fa, forse di più. L'ho bisogno di chi di me ne trappate tutte e quattro mi. Ma trappati il tempo di 10 minuti non c'è casa a riscendere e la macchina era buttata in terra. Isso si sì, l'hai fatta misurita tant'anni fa, due come davanti non ero via, l'hai buttata a terra. Sì, invece a me sai cosa mi hanno fatto? Ma tirarli e mi hanno intrappato. Ah, ma chi? Sai cosa mi hanno fatto a me tant'anni fa? Ah? L'hanno visto, no? Ma ne hai detto che la era? So che è andato, l'ha fatto una cosa. Ha detto, oh, mi dai, dei gommi nuovi mi dai, due a me, anche se no ti abbrindui. So che è andato, ha fatto vedere il bustetto, l'ha detto, ti abbrindui, dabri. Tra 10 minuti voglio dei gommi nuovi io. Ma so cosa ne ha fatto? Mi hanno regato dei gommi, mi hanno regato. Nuovi, nuovi, nuovi, prezzi identici. Magari hai tu i matessi. Antonello, avanti. Figlia, qua sono non c'è problema per quello. Quella zona è l'onfia, già lo sai. Oioia. Ma io da voi a chi su? Col camion, l'ha già disintegrato la macchina. Non so quanto l'è convenuto. Meglio così, hai fatto bene. Dove la fettina? Frecciata, viaggio, sotto a casa Gioia Mattesi, e da poi non ben parato. Ho avuto paura, ho avuto, dice che tu hai mezzo di lato del capo, si vuole sotto pure a me. Ehi, no, chi è Romacco più di Eto? Io ne sei così però non c'è niente, eh. Io non conosci la zappita a piedi, andare a pigliare subito. Lì non vanno a mangiare, Mattesi, no, no. fa passare da sé il tempo? Mario. Do la minata a chi viene, sempre la cosa in allerta. Ehi, e la disciugata si accomoda, d'ora passa. Aspetta Giulio. Ehi, ok. Ciao Antonè, ciao Bacchisio, Graziano e Tovole anche, penso che non ci sia nessun altro, ho ascoltato un paio di passaggi ma non ho sentito nessun altro. Magnate direi di fratelli, grazie. Buona legge, Edani, ce ne sono rimaste, salute con un attacchito. Vi trai, beh, via, ti piace. Ma quelle le hai comprate tu, quelle mie sono fatte in casa, Quelle sono fatte dal pasticcere, chiaro che via. E poi qui le buone, mi hanno mangiato buono, 1,50 centimetri da sola. Che fanno male alla salute. Sta in casa, appena va. La ganda. Un'altra cosa, buona reti. Ah, oh, che si pasticceria sono più buoni, cosa si sente. Fatti in casa sono buoni, indubbiamente, ma comparate dalla pasticceria con questa cupa. La professione. Ma chi? Aiù, canta! Aspetta, amica, la faccio, travagliamo in pasticceria, amica! Bello bene, la pasticceria è via l'Italia! Dunque, pasticcera! Nuda, non ho invitato nessuno, si è mangiato dietro, se l'ha fatta si è mangiati! E allora, ho ragione io che sono più buono per la pasticceria, no? Non vuol dire niente se sono fatti in casa o se sono fatti in acquoleria, non vuol dire niente, se ho fatto la pasticceria sono più buoni, danno maggior ragione io, grazie. Te buona piombe a lenza. Ma l'olio è di prima cottura, e pasticceria l'olio non fai solo una cottura, non fai tante cotture. Bello bene. Cosa mi sai tu, se chi sei di primo di quinta cottura, chiedo buono una padella, se ne buono 50 kg, se ne buono in mezzo, ed è prima cottura, magari mi sono 100 litri d'uso. Ma da un gioco di conchicciosa di soffriggito un pezzo, burro, diglielo tu, Bacchi. Certo, Graziano, non è olio come quello che hai tu, che ho io, no? Noi usiamo olio extravergine, quello è olio di semi, ma è maroburo, capito Giulio? Non è roba genuina, anche quello che fa in casa usi olio come si deve, extravergine. Invece che nel pasticceria olio di semi, di girasole, di marasociero si sa. Olio motore, diesel. E allora, basta che non sia friggito con la nafta, non so io, poi... vabbè, comunque il baffigino, non so, con baffigino di fratelli si può essere a vergine o su di seme, chi sono tutti so così? Sono così, sono si pone di sicuro, chi sono così sicuro? Si pone oltre la lima e diventa troppo zosi, assorbe troppo l'uso, assorbe, sicuramente. Sono più pesanti, Giulio, l'olio d'olivo è molto più pesante. Appunto, ma è molto più grasso anche, dunque assorbe molto. Quello sì, ma il sapore è molto più squisito di quello di semine però, E io tu grazie che sei un grande cuoco. Ma la poi fai un blocchetto di infanzia, di sciogamo, Bacchi, l'uso d'arrivano andare a friggi. Ci vuole olio di semi di girasole, ci vuole, con quello esce un bombo, o se no olio topazio di semi però. E chi sarà tu baffigli e da voi si è fatte cose se tu sei arrivato la messa a fagioli per buoni l'uso di estra è logico, no? Ma baffigli e non lo so con quanti bastoni trattano il l'uso da lì ma baffigli ma prima di tutto va che è sprecato e poi è troppo grasso. Ma Giulio, ti dico una cosa, in casa l'uso di sempre non è mai entrato, abbiamo trattato sempre l'uso da lì sia friggi sia tutto, l'uso di sempre non ha mai pigliato le mogliere. E vabbè, cosa avete? Ognuno lo trattano più buco se paghi solo. capita, mi, io stavo trattando pure la mappa, ma sparigi, se che ti puoi immaginare. Oh, yeah. Bene, grazie. Racconta a zio, possiamo così belli lì, a me, a Bacchisio, a Antonello e a Tore. Se vai a vivere, cosa hai trattato sempre? O giù motore, diesel, macchi, volare, due, veloci, fuggisella, arrivino in via, lo giù d'arriva, ammisciato un lo giù motore. A poi cazzo ti rubagliavi, in mezzo a Romagna pure in moto. Ma che cos'è? Shell o della Total? Un po' di Shell. Ma un pochino era isso. Quanto zio era isso. Dove? Tu come te la pensi? Oh, quello totale è meglio. Anche se è Shell, no. Andiamo a essere Shell. E domani? Ah, ma c'è io, diciamo, allo sbrugiato, il motore è trattato. Non è possibile, bobo. Oh, non siamo mai contenti, no? Vai a Torre. Quello è motore, odio Seychelles, quello è. Non è possibile, eh. Ebbene. E allora, ma chi? Stai arrivando a bomba qua, confermo quello che ti ho detto stamattina, stai uscendo benissimo. Graziano, ogni tanto esci e ogni tanto invece si allontana, si vede che si muovi, sento casa con questo portatile, e ogni tanto arrivi il guerre matto, però io non tengo lo stesso. No, è che quello che ti ho fatto vedere, com'era, l'ho piazzato sul palo, a un metro da terra, un metro e mezzo da terra, no, non di più, sotto l'antenna della televisione, infatti il radiale centrale mi si è imbulicato nell'antenna della televisione, capito? Quello lì sto usando. È a bomba stai arrivando qua, proprio radio chiara, bella, e soprattutto forte, molto forte, anda bene. No, tutti quanti arrivate bene, anche Graziano, però ogni tanto si vede che si sposta e magari si alza dalla sedia o si gira alla sul fianco. E allora ogni tanto arriva un po' quel ramasso. Graziano, così è. Qua si caggiù tutta la cadria. Frisure ma niente. Gli hanno mangiato un poco di frisure oggi. Mi ha mandato lui, un figlio mi ha mandato in maniche di camicia e friggendi. Sì, pammi glicemia, ti sei alzata, Aristide si è alzata. Meno un po' mi rimorava a 300. Il mano mi ha detto che si era alzata a 280, ti puoi immaginare. Ma non si preoccupa, già Edo. Infatti, ma che se si fa di due tirati di cose si fa, anzi, fa basciarla. vabbè. Ormai l'ha detto un tempo fa, mi ha detto questo, che quando lo aumentava, l'autore l'aveva detto di aumentare pure l'insulina, così l'aveva detto, a voi non lo so cosa è vero. No, no, già è così, sì. Infatti devo aumentare un bel, invece che fanno un'ora e mezzo nei vasi tre, Capita, e andiamo già. Bisogna regolarsi, Avanti Antonio. Tutto a posto, non ti preoccupare. Quindi andiamo avanti, ce va quello. Andiamo avanti. Beh, certo, quello sì. Bisogna sempre guardare avanti. Anche col passo corto, però andando avanti sempre. Vero, ma chi? Da voi ci sei un bel lungo, ma un basso lungo è tanto meglio. Allora vai a guadagnare. Vero, ma chi? Piano piano, chi fa piano passando fa lontano, dice il proverbio Giulio. Dunque, un basso lungo non bisogna farlo mai, sempre più corto. Eia. Ecco un Antonello, hai risolto quel problema che abbiamo visto stamattina. Facciamo così, lo sondaggio va fermo, non si piace come ti è, no, hai provato a pulirlo, no, ma no, si vede, oh, ma chi, sì che facciamo anche lì, dunque, come i muri, hai visto i muri che belli, eh? Dici, dopo di lusso. Cosa mi fa? Che mangio mai, Maro? Ragazzi, vi saluto tutti, salutori circolari, ce la sentiamo domani, ciao a tutti! Ciao, io ti vita, ciao, grazie! una cerrita di vinto prende, vemo, o fino, lo slaggio, ma chi... Vabbè, sono cose da niente, sono graffiette, però, dimmi, una passata lì dove l'avremo, dai, se buonimo di buona volontà e fermo pure lo slaggio, così è completo, ma chi... Allora, per fare un sudaggio, lo piglio di pastoreggio, beh, andi alla bricola e compreggio un sacchetto di gesso di Bologna, e lì con una passata di paletta americana a gesso di Bologna, e hai finito tutto. E ma poi ho casseggiato così, invece che da maniera, fermo, è andato al ponte, ma te se mi, e ti si rende io pratassendi, perché, dato, lo so fossi, sono le scalfitture e basta, compreso ma chi? A Giuseppe Bologna hai fatto prima, che si sa idrata la baletta e si dice liscio, senza cadrici, senza bisogno di tutto, capito? Ma la poi ho carteggiato, il problema è che io la poi ho friato anche tra i pulini, fai un sacco di bivolo. Il bivolo è assinnata. E se non è una frattassai, andava in due però, un ischio è andato frattasseggia, è andato avanti. E così fermo infatti, ha detto, che vende io frattasseggia da voi? Infatti fermo una tiritura abbastanza muta, in modo che è pure... Ma che non è che vi sia bisogno, però... È meglio farlo, dai, dimmi che è meglio farlo, ma chi si sa che graffiato un po' più profondo, beh, là si sì, perché ha già passato lo coso, no, a pulire la vera, sai la differenza che vede, lo più che viene attaccato, tutto lo più del legno che si è attaccato allo solaggio, ho pulito, magari si prende un pezzo di coso mio, una tavola, e l'attacco un pezzo di carta e pulito, con la frega da tutto e andare lo stesso. Puro, puro. Oppure una ballerina veloce veloce e con una passata di ballerina e vai. Io lo so qui, va bene male con la ballerina come sta andando. Intanto la vedete stacca a battere la ballerina. E non andava a sai. Oh, ma fermo prima, ma che rida di cosa, dai. La cosa vi vuole qui. Lui si ride di patola di vinto, prendi su vini, vini e vini, dunque, lo fermo liquido, lo fermo, cioè liquido, lo senso molto, mi. In modo che tira veloce, compreso, e fa tassato subito, e esce guante dei muri, anzi, pure più bello. Chiaro, esce più bello, è chiaro, giù, andava bene. Io ne approfitto del giro a chi del PQRT a svegliare i medesimi. Ciao Giulio, grazie della compagnia, salutissimi, ci sentiamo ancora più in là, se Dio vuole. Ciao Antonello, buona serata anche per te, Ide con le patatine, per Tore, e salutiamo a Graziano se n'è andato. Ciao a tutti, Bacchisi in QRT, riprendi Tore. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, ok, ci sentiamo magari domani, se va tutto bene. Va benissimo, riprendi Antonello. E ho detto ciao Bacchisio, alle prossime sono turni, non c'è problema, ci vediamo, ci sentiamo, ok, non c'è problema. Ok, ciao Bacchisio, ci sentiamo, grazie a te da chiacchierato, dai, alle prossime. E Graziano, abbiamo già chiuso, ciao Graziano, se sei ancora all'ascolto, il microfono a Tore, dai, siamo rimasti in tre, mi pare, io, Tore e Antonello. Sì. Altri 5 minuti il resto, poi anch'io devo uscire. Va benissimo. Graziano ha chiuso, comunque lo saluto lo stesso, Graziano. Ci sentiamo domani, grazie. Va benissimo. Giulio, allora. Allora stiamo facendo. Siamo piano, faccio due pugnali e tiriamo a campare. Quello sì, un pezzetto ogni giorno ne facciamo così. Infatti. Senza sacrificarci troppo, però un paio d'ore tutti i giorni e il lavoro va avanti, perché no? Stamattina era avvenuto anche Bacchisio, nonostante che non siamo delle vestiere, né io né Antonello, lui ha steso l'intorno a Cofino, prima avevamo fatto quello grosso, no? Poi quello fino e io ho frattassato. Liscio, sai cosa vuol dire liscio? Non c'è un buco da nessuna parte. E non dico niente, forse l'intonacchino non è che non lo sa fare, ma non si sarebbe impegnato così a fondo come abbiamo fatto noi. No, non è che non lo sa fare, lo sa fare se lo vuole fare, però non lo so quanto si impegna così a fondo, capito? Sì, l'intonacchino molte volte anche lui già qualcosa la lascia, però quando sento un attimo professionista lo sa fare bene, e a buia. Ma meglio io molte volte farcelo noi e risparmiamo. No, ma non è nemmeno un fatto di risparmio, il fatto che avendo il tempo, secondo me avevo interpretato un'impresa. E sempre aspettando, un giorno mi telefono, ma un giorno dopo due mesi che io stavo sempre aspettando, dice, ma ci sei in bottega? Sì, che ci sono, domani mattina, perché adesso è luglio un quarto, dunque non ci posso essere adesso, sono luglio un quarto, domani mattina, perché? Perché voglio venire a fare il preventivo, non mi vieni più perché l'abbiamo già fatto sul lavaggio, ti ho aspettato per due mesi, e capita così, cosa credi, che ti devo pregare anche per venire a fare un lavoro? Venivi, lo guardavi, mi dicevi, se lo posso fare fra 20 giorni, 30 giorni, fra un mese, ma non manco ti sei fatto vedere. Invece non ti sei visto, per me le persone che non si vedono voi significa che non vogliono lavorare. Cosa le dovevo dire? Quello sì, vuol dire o è impegnato con qualche altro posto o non ne vuole va. Appunto, ma uno cosa dice? Non lo posso fare, sei impegnato, non lo può fare, dice no, guarda, in questo momento sono impegnato, non lo posso fare, o perlomeno lo posso fare fra un mese, fra due mesi. Ecco, uno sa, ma non è che posso aspettare in vano. A preferenza ci siamo noi parlando con questo amico, fatta cosa, lo facciamo lui. Oh, non è che mi meraviglio perché mi ho fatto la mezza casa, ci ho fatto, no, per cui piano piano ce l'abbiamo fatta, per cui va bene così. Avete risparmiato tempo, così è già fatto e non vi vince di più. Sì, ma anche a te, però il problema è che uno vabbè, lo fa, si arrangia, si accontenta, no, guarda, ti posso assicurare, senza nessuna presunzione, guarda. Se tu vuoi venire a vederlo, puoi anche venire, problemi non ce ne sono. È bellissimo, è finito liscio, sai cosa vuol dire? Proprio perfettamente finito, senza un minimo, ma nemmeno di un chiodino tessarpito nel buco, nulla, proprio perfetto. E considera che sono muri vecchi di 50 anni fa, meno che sono muri d'oggi, no? Infatti. Se sono da intonaga e coso, meglio farsi di subito e cavanina a mezzo ribiri. Beh certo, abbiamo fatto tra mezzo, l'abbiamo fatto con tanto di trave e tutto quanto, con due finestrine, e adesso devo costruire la porta scorrevole, eccetera. E poi intonacato da zero. L'ultima mese l'avevo fatta bloccata da dirsi, ma è due, è lampanino, è poco forte. Sopra da muro a muro, da pilastro a pilastro, ci abbiamo messo una trave di quelli da solaio, armata, e abbiamo fatto il gettito col ghiaino e il sabbia cemento. Sai che hanno uscito voci. Come la trave mantenne il barazzo, È meglio così. Ah, ma così tenete più tene. Vabbè, a me mi sociamenti. Beh Giulio, io ti saluto, se in caso ci sentiamo domani, se Dio vuole. No. Andave. Antonei, se ci sei ancora io ti saluto, Ok. Ciao, c'è proprio per quello. Buona notte a tutti. Ciao Tom, grazie per la chiacchierata, dai. A domani se coincide. Siamo esami, che è meglio. Ciao di nuovo a te, ciao, saluti in famiglia. Avanti Antonio. Già salutato a tutti, per quello non c'è problema. Lo so. E beh, e tu Antonio? Lavorando, buscando ne stai? Ui, non c'è niente, cosa cazzo vuoi fare? Non c'è nulla. Io lo so, non c'è niente, no, purtroppo, poi in quel settore lì. Quel settore oggi la gente cazzo se c'è da riparare un'apparecchiatura, vai se la compra nuova. Boh. Purtroppo i tempi sono quelli che sono e ci hanno portato a quei livelli lì tutte le persone che appunto lavorano di qualsiasi mestiere per nome, ma soprattutto nella categoria tua. E io lo so appunto per quello. Tu pensa che un amico che faceva prima il commesso di ferramenta, no? ci siamo incontrati un giorno ed è lui il suocero di un famoso radiotecnico di Sassari che ha il laboratorio Alfredo Agneta. E mi aveva raccontato, dice mio genito ci ha buttato un camion pieno di televisori, proprio buttati, tutti funzionanti di quelli vecchio stampo, no? E perché gli portavano il televisore a fare la riparazione, lui guardava e poi non, praticamente tu lo sai, no? Una volta che tu controlli, fai la riparazione e fate e basta, non è che, o perlomeno se non l'hai fatta, sai qual è il danno, è come se fosse fatta, perché cambio componente, il lavoro praticamente consiste nel trovare il difetto, no? E dice, e poi non venivano più a ritirare. Ma non avevo imparato, dice, avevo imparato mio genito, dice, si faceva lasciare 30 euro in acconto come preventivo, diciamo, poi al momento del ritiro quei 30 euro venivano scontate. Beh, nonostante che lasciava le 30 euro non andavano più a ritirare i televisori, si recuperavano i nuovi, Antonè. E dunque si è trovato a un certo momento con il laboratorio pieno di televisori riparati e nessuno più li aveva ritirati per tanto tempo. Un giorno si è arrabbiato, ha preso un camioncino e si è portato tutto casa al Berruiccio. Antonè? Antonè? Tonello? Aspetta un attimo, arrivo subito. Ok. Antonello, se mi stai ascoltando, dai, devo andare a cenare, dai. Ci sentiamo domani. Ciao Antonello, se mi stai ascoltando, ciao. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Dimmi tutto. Sì, dimmi. Sono qua comunque. Sono a casa, non c'è problema. Meglio così. Sono contento. E ora vai a mangiare, non c'è problema. A dopo allora. Non serve. Chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukachu, chukach